Avvocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. In Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa, la cosa, la cosa. Questa è la situazione in questo momento, questo tifoso è il grande protagonista di Italia-Serbia e non si può farlo agire impunemente ancora a lungo. Quello che sta accadendo è gravissimo a livello internazionale. Cassano ha ragione. Chiellini, applausi al pubblico, la partita si chiude qui. Esattamente. La partita che non si è di fatto mai giocata si chiude qui. Aspettiamo l'ufficialità comunque, Marco, ma si finisce qui sicuramente. Aspettiamo adesso la voce ufficiale di qualche dirigente responsabile. Ma sono il giocatore serbi e la federazione serba che sta insistendo perché c'è la coscienza piena che questa partita, se si sospende, non si gioca più. La Serbia perde 3-0. Il saluto dei tifosi azzurri la dice lunga, che se ne dica, appunto, questa partita non si riprende più. Calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa, la cosa, la cosa. Metri l'Italia e arriva un altro fumogeno nel cerchio di centrocampo lanciato sempre dai tifosi croati, interviene l'arbitro, fermo. È ripartito il lancio, è ripartito il lancio dal settore occupato dai tifosi della Croazia. Piovono fumogeni, petardi qui al Meazza in serie, tra l'altro un petardo esplode molto vicino a un vigile del fuoco, adesso la nebbia a San Siro, eccoli qua i fenomeni, poi il colpo di testa di Brozovic. E ancora, adesso però Kuipers, credo mandi le squadre negli spogliatoi. Kuipers ferma la partita. Il calcio in Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa, la cosa, la cosa, la cosa, la cosa. Ciao Franco Piantanini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. 800 24 00 24 è il numero verde, l'onda degli ultra dell'est, l'avete sentito, di questa magnifica copertina, devo dire, ci facciamo i complimenti da soli, ma è bellissima. Comincia a diventare un problema di difficile soluzione tra Ivan il Terribile, come abbiamo ricordato, i droni nel cielo di Belgrado, ieri gli ultra a scacchi che sono venuti a fare casino dalle nostre parti. Però io domando e mi domando, non sarà mica un caso se evidentemente qualche problema c'è, qualche intenzione di rivendicare delle cose esiste, però sarà un caso se questi vengono a fare sempre casino dalle nostre parti. Questo è un interrogativo che mi faccio e una risposta ce l'ho, anche se non mi piace per niente. Quanto al campo, che sinceramente è la cosa di cui vorrei parlare anche con voi. 800 24 00 24, il numero verde, lo ricordo, Pardo arriva alle 3, che sta tiki taccheggiando, ma poi lo sentiamo. L'Italia ha pareggiato 1-1, prendiamone atto, contro una squadra che ha al momento superiore. La Croazia ha una qualità superiore, ha dei giocatori di tecnica superiore. Noi non abbiamo Modric, che si è fatto male dopo un pugno di minuti e stava dominando totalmente la partita. Non abbiamo Rakitic, che poi ha preso il suo posto senza lo stesso talento, ma con grandissima personalità. Possiamo dare atto a Conte di aver dovuto, insomma, giocare con una squadra sperimentale, contro una nazionale al momento superiore rispetto alla nostra. Non abbiamo tanta qualità davanti, perché con Balotelli tornato al suo paese, a proposito, questa gaffa di Tavecchio, ragazzi, a me non sembra la peggiore, devo dire la verità. Sapete, ieri ha detto niente, Balotelli non ci rientra al suo paese. Non mi sembra, adesso, al di là del fatto che il presidente federale venga monitorato costantemente, non mi sembra l'uscita peggiore, in tutta onestà. comunque al di là di Balotelli, con Giuseppe Rossi rotto per chissà quanto altro tempo, Destro che non gioca, Osvaldo che vediamo, giocherà contro l'Albania Okaka, ha fatto mi sembra 14 gol in carriera in Serie A a 25 anni, non esattamente dei numeri strabilianti. Non abbiamo tantissima qualità davanti, a centrocampo quando mancano Pirlo e Verratti, i soliti noti, anche lì non c'è grandissima abbondanza. Dunque, questa è la nazionale italiana di oggi, c'è una squadra inferiore rispetto a molte altre, Croazia compresa. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo insieme e parliamo di tutti questi argomenti e di molti altri ancora. Una cosa bruttissima che non deve stare sul campo, perché la Croazia ha fatto 20 minuti prima del tempo, abbiamo avuto sempre la palla, è successo questo che è successo, non so perché, questo non sono i nostri tifosi e questo possiamo solo dire. Pasquale in mezzo, fa passare il pallone immobile, lo scambia con Zaza cerca il sinistro, respinto da Gianluca, c'è spazio per Candreva e il pallone in rete, ha segnato Candreva, Italia in vantaggio all'11esimo, è il primo gol in azzurro per Candreva, ha toccato in pratica due palloni, il secondo l'ha messo dentro, Italia 1 Croazia 0. Serna si chiude la difesa dell'Italia, il pallone però arriva a Rakitic che è sufficientemente libero per allargare verso Perisic, il destro di Perisic. Il pallone passa sotto la pancia di Buffon, arriva il pareggio della Croazia al 15esimo. Il risultato è una prova che rappresenta un passo in avanti. Sì, non era semplice, si è messo anche il problema di Pasquale, abbiamo fatto debuttare anche Soriano. Ma diciamo che è una partita contro una squadra sicuramente più rodata rispetto a noi, con grande esperienza, grande qualità. Abbiamo fatto bene, è una squadra questa che non si arrende, che ha voglia di fare. Certo dobbiamo sicuramente migliorare, ma c'è sicuramente grande voglia. Ringrazio anche il pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine ed è venuto così numeroso qui a San Siro. Questo è il succo, il senso della partita di ieri sera, comprese le parole dei finali di Conte. Fulvio Collovati, buongiorno, che piacere. Buongiorno, buongiorno. Ciao, come stai? Buongiorno a voi. Come stai, tutto bene? Bene, bene. Poi noi ci sentiamo, Ci sentiamo oggi per prendere atto di queste dichiarazioni di Conte e del fatto che l'Italia è una squadra inferiore alla Croazia. Poi se sia un passo avanti o un passo indietro quello di ieri sera non saprei dire. Devo dire che di buono c'è il risultato, insomma, certo. 1-1 con la Croazia, chi ha visto la partita da casa, insomma, io ero a casa davanti al televisore, insomma, devo dire che di positivo c'è il risultato, poi insomma 70% possesso palla alla Croazia, 30% noi, insomma, penso che le parole di Conte siano emblematiche, lui si appella all'infortunio di Pasquale, pensa un po' che dall'altra parte hanno rinunciato a Modric, certo. Cioè il paragone Modric-Pasquale, per cui insomma io devo dire di positivo c'è il risultato, poi è chiaro che Conte non mi sembra il caso di in questa occasione di metterlo così sotto processo, perché il risultato è positivo e il materiale umano che ha a disposizione è quello che è. È certo, siamo più deboli rispetto alla Croazia, su questo non ci piove perché quel centrocampo ce lo sogniamo. Magari noi facciamo un tiro in porta in 90 minuti, magari facciamo gol, loro mantengono il possesso del pallone per 70 e questa è manifesta inferiorità, però poi dopo alla fine quello che conta per il risultato, lo sai. Sì, ci sono l'attenuante per Conte è una squadra più o meno sperimentale. Sì, è una squadra sperimentale, però negli esperimenti poi alla fine chi ti tradisce è colui che non è un esperimento, tipo Buffon. Certo. Cioè, la realtà è questa, gli esperimenti. Cioè non è che il materiale è quello che è, Fulvio. Entra Soriano, cioè un giovane che è valido e è tutto da valutare in chiave nazionale. Per cui insomma di positivo c'è il risultato, la possibilità secondo me molto elevata che passiamo il turno, e la cosa più importante è questa. Senti, a centrocampo è stato un confronto che abbiamo dipinto, il confronto è quello. In attacco però, secondo me, è dove dobbiamo preoccuparci di più, perché insomma abbiamo Immobile che fatica nel Borussia Dortmund e sta muovendo i suoi primi passi nel calcio internazionale, Zaza che gioca nel Sassuolo senza spaccare le reti, Balotelli, come dice il presidente federale, è tornato al suo paese, Rossi rotto, Destro che non gioca nella Roma, Osvaldo vediamo, adesso ci aggrappiamo ad Okaka, che è uno che a 25 anni ha fatto 14 gol in Serie A. Allora, non è una giustificazione per Conte, perché nel momento in cui diventa allenatore della nazionale è chiaro che ci si aspetta molto da lui, però io mi ricordo forse non è piacevole parlare del passato, però Berzotto aveva la possibilità di scegliere tra Graziani, Altobelli, Paolo Rossi, Bettega, Giordano, Pruzzo, e cioè aveva una di 10 attaccanti che erano tutti titolari nelle loro rispettive squadre. Qui ci troviamo di fronte, come hai detto tu, un elenco di nomi che alcuni non giocano all'estero, e il nostro attaccante centrale gioca nel Sassuolo, per sì. cui fa riflettere, questa è una cosa che fa riflettere, forse è il caso di questo è tutto frutto del risultato di ciò che abbiamo seminato negli ultimi anni, nel senso che si è più guardato all'estero che nei nostri vivai, e per cui accontentiamoci di Zaza, che è un ottimo giocatore, però e Zaza non è Altobelli, non è Rossi, non è Pruzzo, Rossi, eccetera. Ma l'Italia ha bisogno di Balotelli, secondo te? Questo Balotelli no. Balotelli che fosse più mediatico che giocatore, l'Italia non ha bisogno di un giocatore così. L'Italia ha bisogno, anche Conte mi pare che l'abbia dimostrato, ha bisogno di un giocatore che faccia entri come parte integrante del gruppo, che giochi per la squadra, non per se stesso, che sia più attento alle prestazioni, alle prestazioni sue, quelle della squadra. Mi sembra che invece sia molto distratto da qualcos'altro. Fulvio, l'ondata degli ultra dell'Est comincia a diventare un problema di difficile soluzione. Io prima mi sono autodomandato: non sarà un caso se vengono a fare del casino da noi? La risposta ce l'ho, ma non mi piace, e comunque sta in un messaggio che ricevo. A me ritirano una bottiglietta all'ingresso dello stadio, questi portano dentro quello che vogliono. Guarda, ma il problema è che lo sanno. Io sono testimone personale, sì. Una cosa che mi è capitata quando sono, 4 anni fa, sono andato a fare una telecronaca per la Rai, sì. La finale di Coppa Italia tra Napoli e Juventus, non mi hanno fatto entrare con ombrello, uh-huh. E pioveva di rotto, non mi hanno fatto entrare con ombrello, e mi conoscevano, mi conoscono, uh-huh. Ecco. È inutile che ti stia a dire che entrano razzi, come hanno fatto entrare ieri, così. È chiaro che c'è troppa tolleranza da parte del nostro paese in tutti i sensi, non solo nel calcio ma anche in altre cose, ma quello fa parte della politica. Sì. Il calcio, che poi è diventato politico anche il calcio, ormai perché il Ivan il Terribile viene in Italia, certo. Che ha fatto? E perché ieri vengono questi? Perché? Perché alla fine la polizia è lì inerme, che in attesa di farsi colpire, se poi reagisce ce la prendiamo con la polizia. Certo. Certo, e allora dicono: se c'è un posto dove possiamo andare a far casino è l'Italia, quindi andiamo lì e facciamo le nostre cose, lì. Assolutamente, no? Così. Allora, se vogliamo punire, puniamo la Croazia, la Serbia, escludiamole dal campionato europeo, perché a questo punto li devi escludere dal campionato europeo, però insomma mettiamoci nei panni anche dei giocatori. O anche la federazione croata cosa può fare? No, chiaro. Sono delinquenti che trovano terreno fertile nel nostro paese. Un'ultima cosa, Fulvio, e riguarda una tua squadra, questa te la dovevi aspettare, sai già qual è? Alla fine l'opinione pubblica ha avuto quella di Milano che non ha il rosso. Vestita di nero azzurro, cioè, cosa mi vuoi chiedere, di Mancini? Sai, l'opinione pubblica ha avuto quello che volevano. Oggi Fassone ha detto: su Mazzarri è inciso un clima negativo, e adesso il budget che avevamo l'abbiamo usato per prendere un altro allenatore. La verità è stata una scelta molto... Io non ho mai visto un allenatore così maltrattato, un allenatore così maltrattato. Sì, non significa togliere meriti all'allenatore attuale, Mancini, assolutamente, anzi penso che sia la persona giusta per l'ambiente dell'Inter, che ha bisogno di ritrovare entusiasmo, personalità, certezze, un ambiente molto masochista abituato a farsi del male. Detto questo, riflettiamo anche su ciò che è stato fatto nei confronti di un allenatore al quale è stato inviso sin dall'inizio, e diciamo la proprietà, in questo caso una figura di Toia, ma non solo, si è fatto influenzare anche da Moratti, parliamoci chiaro, sì, ha fatto sì che insomma la mediaticità ha avuto la meglio su altre scelte, ecco. Grazie Fulvio. Grazie davvero, sempre un piacere. Ciao Fulvio Collovati. Beh, abbiamo toccato un po' di temi. Oggi leggo anche che, insomma, su Repubblica, giusto per fare nomi e cognomi, scrive Andrea Sorrentino, questa, insomma, questa ricostruzione della cacciata di Mazzarri, su cui avrebbe prevalso la volontà di una certa corrente all'interno dell'Inter, che è quella legata a Moratti, quella legata a Zanetti, che non a caso, o forse per caso, questo non lo so, in questi due giorni è tornato alla Pinetina quando non si vedeva da mesi. E dunque Mazzarri, o meglio questa corrente dell'Inter, avrebbe spinto Toir a fare questo passo, come ha detto Fassone molto onestamente oggi, su Mazzarri ha inciso un clima negativo, all'Inter è tornato il sorriso, adesso però ragazzi non c'è più quattrini, non c'è più il becco di un quattrino, perché abbiamo usato tutto per cambiare allenatore. Cominciamo con gli ascoltatori invece. Dorian Bergamo, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dica. E complimenti intanto per la trasmissione. Le spiego, io sono albanese, sì, e mi volevo collegare a quello che è successo ieri sera, a quella della famosa partita tra l'Albania e la Serbia. A lei la vedo molto indignato quest'oggi, però non era così indignato l'altra volta. In pratica ha detto che insomma nei paesi dell'est così, nei Balcani così, no, sono i serbi che fanno così, magari sono anche i croati, ma gli albanesi lì in Serbia non hanno fatto niente, non c'erano. No, ho capito, però quell'aggeggio non l'hanno fatto volare, non ha fatto, certo, volare i serbi. Ma quell'aggeggio, dopo quello che è successo in campo, a partire dall'inno albanese che è stato fischiato, dopo l'Ivan il terribile, ma lì si rende conto, in un campo di calcio è ricomparso di nuovo Ivan il terribile. Sì, ma questo l'abbiamo, no, ma questo l'abbiamo detto. Ma lei si sbaglia nel dire che io non ero, sono indignato questa volta, non lo ero altra. Sono cose terrificanti intorno ad una partita di calcio, l'una e l'altra, quella che è successa a Belgrado. Ma non mi va neanche di dare un giudizio di merito o di valore, perché sono cose allucinanti che su cui non c'è la possibilità di una spiegazione. Quello che dico è che a Belgrado fischia all'inno, tutte queste cose, sappiamo che la politica in quello stadio sarebbe entrata, sappiamo che entrerà anche la prossima volta, tutte le volte ci sarà un confronto di questo tipo, sappiamo che ci sono dei problemi, quei problemi covano sotto la cenere. Quello che dico è che a Belgrado c'è stata una provocazione raccolta nella maniera peggiore dall'ambiente circostante, e quello che è successo in campo lo sappiamo, non c'è bisogno di andare a cercare altri dettagli perché è tutto documentato. 800240024, dopo la borsa andrà da Milano. No! C'è una domanda a Conte, quando mi comunicò la convocazione mi disse: noi dobbiamo testare. Avrà testato e poi c'è un problema, mi pare, inguinale, quindi rientra al suo paese. Grazie. Io non sapevo che la Croazia fosse un paese di soli 5 milioni di abitanti, pensavo, vedi, questo è il brand. Io nel mio comune pensiero crediamo di avere davanti una importante nazionale. Io parto dal Venezuela e quindi i giocatori, chi più e chi meno, sono quelli, e credo che Conte abbia fatto un ottimo lavoro. Abbiamo fatto 4 partite e 4 vittorie, cosa si vuole di più da lì? Presidente federale Carlo Tavecchio, Andrea da Milano, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Volevo parlare in merito all'organizzazione della partita di ieri sera. Cioè, sicuramente il comportamento dei croati è da condannare, ma tutto l'insieme era stato organizzato in maniera pessima. Fin dall'inizio non avevi la possibilità di sceglierti il settore in relazione alla disposizione dei tifosi avversari. Sì. E se vogliamo così far finta che tutto vada sempre bene, allora in realtà una partita pensata anche a livello di prezzi per portare le famiglie, devi dare quantomeno la possibilità di mettere i tuoi figli in una condizione serena di potersi godere la però, partita. Però sai, non so fino a che punto ci fossero le premesse del casino che è successo ieri sera, perché non abbiamo grandi problemi con la Croazia, non era tra virgolette una partita a rischio, in teoria no? Sì, ma se andiamo sempre avanti con le buone intenzioni, in realtà poi ci troviamo con il problema di ieri. Ma sai qual è la verità? È che, come si diceva prima con Fulvio Collovati, questi che hanno intenzione, che ci siano delle frange estremiste degli ultra del tifo in quell'area, per ragioni politiche, per ragioni che possiamo approfondire, che non sono neanche semplici da chiarire fino in fondo, almeno in questo contesto, è una realtà. Ma perché vengono da noi a fare questo tipo di manifestazioni? Perché è stata una manifestazione premeditata, perché è evidente che quello che si sono portati dietro sta ad indicare come fosse una manifestazione premeditata. Perché vengono qui? Perché sanno che lo possono fare. Esatto, e qua mi aggancio alla situazione che secondo me è ancora più grave, perché io col biglietto che avevo sono stato dirottato su un altro cancello. Sì. Perché sarei dovuto entrare altrimenti insieme ai croati, che non venivano controllati come non sono stato controllato io. Ti chiedono documento, nome, data di nascita, ci siamo presentati dopo essere stati pigiati contro delle transenne, e ricordo sempre, con dei bambini piccoli. Io il più piccolo, ma lo sono piccolo, ma relativamente, nel senso che non sono comunque così incosciente di portare un neonato. Certo, 10 anni, lo sono dovuto mettere sulle spalle, sennò era schiacciato in mezzo alla folla. E quando sono arrivato allo sbarramento, nessuno ha guardato la corrispondenza del biglietto documento, non hanno guardato nel mio zaino, e questo succedeva al cancello a fianco al nostro dove entravano i croati. Sì. Tant'è che avevano i petardi per il lancio che facevano, ho letto, ma l'avevamo capito tutti, dovevano avere anche quantomeno una lancia razzi, perché altrimenti non ci arrivavano là in mezzo al campo, solo con la forza del lancio manuale. Certo. Ecco. Quindi pienamente d'accordo con quello che dicevi tu. Vendono, cioè lo fanno qui da noi perché sanno. Perché sanno che lo possono fare. Vai a fare una cosa del genere. Dipende da molte cose, non dipende soltanto dall'assismo dei controlli, dal fatto che la polizia può fare fino a un certo punto, non dipende soltanto da queste cose, è anche un problema strutturale, perché in un paese con degli stadi normali, all'altezza del nuovo millennio, queste cose è più difficile farle, perché hai ingressi diversi, perché hai un sistema differente, no? In uno stadio normale. È chiaro che, torniamo al solito problema, in Italia stadi normali non ci sono, se non 1/2 che sta nascendo, quello di Udine, eccetera, però la verità è questa, altro che giocare al Colosseo o al Circo Massimo. Davide Treviso, grazie Andrea. Davide, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie a lei e complimenti per la trasmissione. Grazie. Io volevo rifarmi anch'io alla partita di ieri dell'Italia per dire un paio di cose, no? Innanzitutto, per quanto riguarda il gioco, penso che il risultato è stato forse più a nostro favore, nel senso che poteva andare peggio. Però sulla carta io insisto a dire che secondo me l'Italia è più forte rispetto a una Croazia. Ma no. Oggi no, Andrea, oggi no. Cioè, non la Croazia ha dei giocatori che noi in questo momento non abbiamo. Rakitic, posso fare gli stessi nomi, ma metto anche Olic, metto Mandzukic, ovviamente Luka Modric, che è un giocatore che a me piace da impazzire non da ora. Questi giocatori di questo livello, consacrati sul piano dal punto di vista internazionale, noi non li abbiamo. Chi possiamo presentare? No, sì. Dimmi tu, cioè chi abbiamo di questo livello? Possiamo avere, cioè Verratti è un paradosso, non gioca neanche titolare in nazionale, fa fatica a trovare posto, è una cosa incomprensibile, gioca titolare nel Paris Saint Germain. Gli altri, ragazzi, Buffon e Pirlo, va bene, abbiamo dato. Chiellini ancora regge confronto internazionale. De Rossi 100 partite in nazionale, giù il cappello e tutto quanto, però in questo momento siamo inferiori dal punto di vista del talento dell'organico alla Croazia, per questo dico che per l'Italia ieri è stato un punto guadagnato. Certo, e poi l'altra cosa era a proposito appunto di quello che è successo con i tifosi croati, dico ma visto che questa cosa si è ripetuta, voglio dire, trovare la responsabilità di questo, perché a questo punto non me la prendo con i tifosi croati, ma me la prendo più con le persone che sono lì a vigilare e che dovrebbero avere la responsabilità di controllare questa gente che entra. Ma perché non si può fare qualcosa di più rispetto a quello che già si sta facendo e che non sta avvenendo fondamentalmente? Ecco, questo perché, non capisco. Perché in parte per i motivi che abbiamo detto, cioè gli stadi sono quelli che sono, quindi succede quello che ha raccontato il nostro ascoltatore di prima, problemi organizzativi, entra in quel cancello e poi ti mettono in una gabbia come un... una sorta di animale, e poi fai la fila e poi entrano e magari ti controllano, ti tolgono la bottiglietta se entri da una parte, se entri da un'altra invece non ti controllano perché hanno degli altri problemi. È chiaro che a livello internazionale chi vuole venire a fare del casino, tutte queste cose le sa perfettamente, e quindi non a caso sceglie la trasferta a Milano a novembre, non è che sceglie quella, che ne so, in Inghilterra, in Germania, in Francia, eccetera eccetera, perché sanno perfettamente che queste cose lì non potrebbero farle. Gianfranco Trieste, buongiorno. Buongiorno, io sono stato testimone ieri mattina per motivi lavorativi delle forze dell'ordine che aspettavano i tifosi croati al confine con la Slovenia. Sì. Controlli zero. Nel senso, io lavoro nell'ambito della sicurezza privata. Sì. E stavo lì per lavoro e vedevo la scena. Fermavano i mezzi, non veniva fatto un controllo, una perquisizione, perché tutte queste cose qua potevano essere fermate anche a monte, anche prima dell'entrata nello stadio. Sì, però sa, normalmente se uno, cioè ti vedi della gente che è normale, che arriva dalla Croazia, lascia stare che ha sulla maglietta a scacchi, però non esiste in teoria una ragione per fare dei posti di blocco e per perquisire questi e quegli altri, no? In teoria, cioè non dovrebbe esserci motivo. Anch'io lavoro qui vicino allo stadio ieri sera, perché il Sole 24 Ore è non molto distante dallo stadio, ieri qui era un tripudio di maglie a scacchi bianche e rosse. Non che abbiano fatto delle particolari cose, gente normale con la loro maglietta andavano a vedere la partita, quindi non esiste in teoria una ragione, che poi quelli che hanno fatto tutto quel casino erano 200-300, non erano i 6.000 o più che croati che erano allo stadio. Quindi Gianfranco, io non vedo sinceramente il motivo per instaurare uno stato di polizia alla frontiera, no? Posti di blocco e queste cose, non, in teoria io non lo vedo. Allora fermiamoci per il traffico, 800 24 00 24, torniamo subito. C'è stato un limite a questa Croazia, la poca concretezza in attacco. Avete prodotto molto, poi in attacco nel momento decisivo avete fatto un po' di fatica. Sì, perché l'Italia è chiusa bene. Noi sapevamo che l'Italia, quando si mette indietro, come hanno visto che noi abbiamo giocato meglio, come si è visto, loro si hanno messo dietro, è difficile trovare spazio. Anche per noi attaccare, per noi che siamo davanti, è stato difficile. Loro lo sapevamo sin dall'inizio che comunque erano molto forti a livello tecnico, quindi giravano la palla, non era facile trovare il tempo per riconquistare la palla, però poi dopo il mister ha cambiato qualcosa, ha cercato un po' di trovare altre soluzioni. Non è stata una partita facile, dobbiamo dare anche i meriti a loro. Sì, direi che è la cosa principale, sono veramente molto contento di aver trovato prima il gol col Milan e poi di essere tornato in nazionale, però abbiamo cercato di fare una buona partita, purtroppo è arrivato un pareggio, però siamo comunque contenti della prestazione, anche personalmente sono molto soddisfatto. Allora, questi erano Kovacic, Pellè ed El Shaarawy al microfono di Dario Ricci, che era il nostro inviato alla partita. Leggo una dichiarazione di Lippi al Gazzadei. Sapete che oggi c'è questa nuova veste, nuovo formato della Gazzetta, una sfilata di grandi personaggi, e c'è anche Lippi che dice: basta allenare club, adesso cerco una nazionale, una panchina, risulta che stia liberando. C'era seduto sopra, anzi c'è ancora, perché non sono ufficiale le dimissioni, c'è seduto sopra un italiano, Fabio Capello, la panchina è quella della Russia, e risulta che Capello stia praticamente presentando le dimissioni, ormai non si sopportano più, e poi non ci sono più quattrini, quindi la panchina si libera quanto ha l'opportunità di andarci in questo momento, caro Marcello Lippi, vediamo. C'è anche Trapattoni che sta per sostituire un altro tecnico italiano, che è Ranieri, come sapete, licenziato con grandissima fretta dalla Grecia, e adesso lì ci potrebbe essere il Trap. Mi è stato chiesto se davo la disponibilità anche alcune nazioni sudamericane, ho detto che sarei disponibile, però voi siete degli incredibili divulgatori di notizie, quando uno dà il suo assenso per poter così essere anche titolato, non lo date subito per scontato. Calispera e Calimera sono due, buonasera, buongiorno in greco, no? Ma questo lo sapevo già quando andai a giocare ad Atene la finale della Coppa dei Campioni. Ed ecco il Trap, sì, siamo incredibili divulgatori di notizie, questo è vero, compresa quella secondo cui l'indiscrezione, secondo cui Parto andrà a fare l'inviato sull'Isola dei Famosi, ma non è confermato, non ha ancora ricevuto nessuna chiamata, poi glielo chiediamo però. Allora, Luigi da Roma, buongiorno. Sì. Buongiorno. Sì. Buongiorno. Senta, io volevo fare una domanda. Chi è che sceglie le sedi dove si devono giocare queste partite internazionali? Perché mi sembra che si faccia di tutto per agevolarli ad arrivare negli stadi, perché si potrebbero fare in posti disagiati, tipo, non so, mi viene Reggio Calabria, non perché almeno molti non hanno... Cioè, non le facciamo in un posto difficile da raggiungere, così almeno questi non vengono. Esatto, questo un posto lontano, in modo che loro non possano raggiungerlo. Questa è veramente la firma sulla dichiarazione di resa. Allora, cioè, se dobbiamo giocare una partita, scegliamo una sede che sia faticosa da raggiungere, possibilmente magari uno stadio piccolo e conciato male, e allora giochiamola lì, così magari non vengono a fare casino. No, questa sarebbe veramente la soluzione, la bandiera bianca totale sulla possibilità di riuscire a gestire un evento in tutto il mondo normale, nel mondo accettabile normale, come una partita di pallone. Questa sarebbe veramente il minimo delle soluzioni possibili. È sempre una soluzione, ma mi sembra la peggiore di tutte. Gian Piero, provincia di Latina, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, allora intervenire riguardo gli scontri di ieri, il disagio di ieri sulla partita. Volevo raccontare di qualche anno fa, sono stato a vedere una partita all'estero dell'Italia, Italia-Irlanda, e volevo dire che noi, diciamo, eravamo molto molto di meno, penso mille. Sì. E siamo stati perquisiti per quasi un'ora prima di entrare. Quindi fare un paragone come sono le forze dell'ordine all'estero, in Irlanda, in questo caso, se noi avessimo avuto i tardi, penso che saremmo stati formati, anche perché c'è un... Ma magari anche ieri, ma guardi Gian Piero, magari anche ieri molti tifosi croati sono stati perquisiti a determinati cancelli, ma la ricostruzione che ha fatto prima l'ascoltatore che ha chiamato è fedele, cioè ci sono delle falle in tutto questo sistema, per cui passi da un cancello, ti perquisiscono e ti tolgono la bottiglietta, ti tolgono il tappo sulla bottiglietta dell'acqua, passi da un'altra porta perché da lì devi passare o vieni fatto passare, e da lì non ti controlla più nessuno perché c'è troppa gente, perché preme, perché ci sono questi varchi che sono più difficili, perché la polizia è da un'altra parte, quindi è tutto il sistema che si presta a questo tipo di cose. E ripeto, gli ultra che ci sono in giro per l'Europa, che vogliono fare casino, tutte queste cose le sanno. Matteo, provincia di Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. No, io le volevo parlare solo per ieri, per l'Italia. Insomma, io ho visto anche cose positive nell'Italia. Ho visto i ragazzi che hanno lottato, poi purtroppo in questo momento... Sì, ma anche a me l'Italia non è dispiaciuta. Ho visto il Sharawi che è entrato con voglia, non male. Ranocchia che ha giocato una signora partita contro un cliente non facile come Mandzukic, certamente, ma anch'io ho visto cose. Guardi che Matteo, io non ho mica detto che l'Italia ha giocato male ieri sera, io semplicemente dico che l'Italia ha fatto tutto quello che poteva e nel miglior modo possibile con le armi dei poveri contro una squadra, contro una nazionale che in questo momento è superiore dal punto di vista strettamente calcistico. Mi limito a dire questo, poi anch'io 6 e mezzo pieno all'Italia glielo do, ma senza dubbio. Bet Corner GR, poi di nuovo qui 800 24 00 24, il parlo sta arrivando. Quote e pronostici. A inizio 2015 sarà assegnato il premio FIFA Coach of the Year con il miglior allenatore del 2014 che trionferà sugli altri in lizza anche parecchi italiani. Vediamo le quote sniper. Questo premio favorito è Joachim Löw, campione del mondo con la Germania, quotato 1,40. Poi troviamo Carlo Ancelotti, campione d'Europa con il Real Madrid, quotato 4. Diego Simeone, campione di Spagna con l'Atletico, è quotato 5. Più alta la quota di Antonio Conte, fresco allenatore della nazionale italiana, quotato 40. Guardiola, Mourinho e Pellegrini sono quotati 50. Jürgen Klinsmann, CT degli Stati Uniti, è quotato 66, così come Luis Van Gaal, semifinalista mondiale brasiliano, quotato anche lui 66. Questa sera invece alle 20 in campo Sassari-Pesaro per il posticipo della Serie A di basket. Vediamo le quote SNAI anche per questa partita. L'1, la vittoria di Sassari, è quotata 1,90. Il 2 invece, con la vittoria di Pesaro in trasferta, è quotato 1,80. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi. Noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Tracksuit and not in a match outfit. Unfortunately, I'm not match fit to play the match tonight. Clearly, I wished it wasn't so dry all year to be ready for the ATP World Tour Finals, and I didn't want it to end this way. But I tried everything I could last night, also today, painkillers, treatment, rest, and so forth, warm up till the very end. But just I can't compete at this level with Novak, and in a finals like this, it would be too risky at my age to do this right now. And I hope you understand. I wanted to come out personally and excuse myself for not playing. Allora, ci stacchiamo un attimo, giusto per qualche minuto, da una partita in cui stiamo a discutere come certi ordigni sono entrati allo stadio di San Siro, per andare ad un'altra partita che non c'è stata, in cui abbiamo visto 17.500 spettatori a Londra applaudire un signore con un golfino grigio e rosso e granata, che è andato lì a dire: benissimo, siete qui a vedere la finale del Master di Londra tra me e Djokovic, non ce la faccio giocare perché ho la schiena a pezzi. Paolo Bertolucci, buongiorno. Paolo? Non lo sento più. Paolo Bertolucci non lo sento, ma adesso proviamo a recuperarlo. Nel frattempo Claudio da Brescia, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E io ricordo... Signor di qui sopra Roger Federer, giusto per precisione di cronaca, ieri non ha giocato la partita contro Djokovic perché aveva la schiena a pezzi, caso più unico che raro, credo, nella storia del, anzi unico nella storia del Master. Dica. Sì, sì, ho visto ieri. Io ritorno un attimo sul discorso Croazia-Italia. Pensavo così, visto l'atteggiamento dal pubblico, non dell'est, ma in generale di questi teppisti, ma non sarebbe più semplice risolvere la cosa se la federazione prendesse una posizione chiara, per esempio dicendo: se i vostri tifosi fanno chiasso, ok, vabbè, partita persa, tavolino, 5 giornate sì, di ma la federazione interna dell'UEFA dovrebbe prendere posizione, poi ovviamente sono tutte posizioni molto politiche, come abbiamo visto nel caso di Belgrado, della partita con l'Albania, quindi le regole ci sono, ma dribbling politici in qualche modo si impongono anche a livello di federazione internazionale. Ecco Paolo Bertolucci che è arrivato, grazie Paolo. Buongiorno. Senti, no, stavo parlando, io mi muovo tra i razzi di San Siro e le 17.500 che di Londra che applaudono Federer, che dice: ma di schiena non posso giocare. Un po' di aria pura. Sì, ma è chiaro, la partita con Wawrinka lo ha distrutto, è stato un peccato non vedere questa finale contro Djokovic, numero uno indiscusso, ma c'è anche chi dice: con la Davis dietro l'angolo magari poteva ma non ha voluto. No. poteva, ma non ha voluto. No, assolutamente no. Guarda, io sono parlato, insomma, con persone dell'entourage. Lui ha provato tutto il giorno, però ha saltato anche l'allenamento, ha fatto le cure, voleva esserci, perché insomma un campione come lui, un'occasione come non riusciamo, purtroppo non ce la facciamo, qualche problema al telefono, un peccato. Walter Torino, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. Ciao. Volevo tornare alla partita di ieri sera, cioè il discorso dei petardi, io lo lascerei da parte un attimo, perché sono questioni extracalcistiche. Io ripeto che l'Italietta di Conte ha fatto tutto quello che poteva fare. Nessuno discute. Io mi sono anche divertito. Se vogliamo però, secondo me, è una mia idea strampalata finché volete, però se vogliamo finalmente tornare ad essere una nazionale decente, vincente. Walter, posso chiederti un attimo di pazienza, se hai voglia di rimanere in linea. Volevo finire il discorso con Paolo Bertolucci, che ci tenevo. È tornato in linea, io credo. Paolo? Sì, sono fermo, però sembra che tu usi il telefono di Pardo. Pardo, sai che c'è questa no, disputa tra me, grandi martellate. Questa disputa tra me e lui sul telefono. No, mi stavi dicendo di Federer, davvero ha provato, si è allenato, ha saltato l'allenamento. No, non si è allenato. Ha rimandato l'allenamento, aveva questo male, si è curato tutto il giorno, e però dopo praticamente alle 5 si è reso conto che non avrebbe potuto assolutamente difendere nel modo migliore le sue possibilità, e non puoi andare in campo contro Djokovic se non sei a posto. Avrebbe fatto una bruttissima figura lui, avrebbe scontentato il pubblico, ma soprattutto una questione di onestà verso se stesso e verso il pubblico. Certo, l'idea, l'impressione che comunque che il viale del tramonto sia imboccato per il re. Beh, sai, viale del tramonto è il numero 2 del mondo, quindi se l'ha imboccato lui, penso quegli altri come stanno messi. Sì. Riuscirà a prendersi quella Davis che non ha mai vinto? Dipende dalle condizioni fisiche. Se lui si rimette nel giro di 48 ore, poi deve provare naturalmente il campo, la superficie che è completamente diversa, secondo me ce la può anche fare. Se però è costretto a stare 2-3 giorni fermo, poi io credo che, pur essendo un fenomeno, in 24 ore non faccia in tempo poi a trovare il timing giusto su quella superficie contro una squadra che comunque è molto forte, perché la Francia è sicuramente una squadra di primo piano. Che tennis hai visto in questo Master? Ho visto un gran torneo di doppio, stranamente, una delusione per quanto riguarda il singolare, la dimostrazione che quei due lì sono di un'altra categoria, mancava Nadal, altrimenti sarebbero stati quei tre lì, e gli altri che, come dire, devono ancora andare a lezione dei maestri, devono ancora camminare, trottare, ma comunque nessuno di quelli che è subito dietro a questi fenomeni raggiungerà mai il loro livello. Come vedi il recupero di Nadal? Lo vedo come le altre volte, insomma, si ferma, si cura giustamente, poi ritorna più affamato di prima, quindi Nadal è vero, è consumato dal punto di vista fisico perché spende tantissimo, però ogni volta che ritorna sempre alla grande, quindi non vedo perché non debba accadere anche questa volta. E per chiudere, come vedi il derby di Milano, Milan-Inter di domenica? Come lo vedo? Lo vedo come una partita purtroppo non di primissimo livello tra due squadre che stanno faticando molto, ma che senza il Vil Denaro sarà difficile che possano tornare su in alto. Questa è una legge abbastanza chiara. Grazie Paolo. Grazie a voi, ciao Paolo Bertolucci. Torno a Walter, con cui stavo parlando prima, che poi ho interrotto. Dica. Sì, ma niente, volevo chiudere il discorso, dicevo, secondo me la nazionale può diventare di nuovo una grande nazionale se finalmente i club italiani investono di più sul settore giovanile, perché che la vedo solo, abbastanza dura. Lo capisco, però squadre come di cui parliamo sempre, come Inter, Milan, anche Juventus, eccetera, la Roma stessa, se contiamo i giocatori italiani che hanno in squadra, sono veramente pochi. Sì, di sicuro, ma poi ci sono delle differenze, ad esempio al Milan. Io la vedo così. Il Milan sta investendo, il Milan sta facendo un eccellente lavoro sul settore giovanile, ad esempio. Poi la vera domanda è, ma conviene? Cioè, a chi fa calcio professionistico al massimo livello ai grandi club? conviene investire sul settore giovanile? La domanda è complicata, eh? Non ho capito. Conviene, sì, no, conviene a questi club investire sul settore giovanile? Ma secondo me bisogna resettare per 5 anni tutto quello che si può dire e fare sulla nazionale. In 5 anni si prende la Under 21 di un certo livello e si porta ad cosa avere. Vuol dire? Cosa vuol dire resettare? Cioè la nazionale Under 21 attuale. Cioè, allora la nazionale Under 21 attuale. Degli interessi. E al di là bisogna pensare che la nazionale deve essere al di là degli interessi pubblicitari, al di là di quello, sì, che è. Il problema è che è la nazionale, sì, che l'acqua che muove il mulino sono le squadre di club. Non è quel fenomeno meraviglioso, romantico, anacronistico che è la nazionale. L'ho capito. Sono le squadre, io ho parlato di tennis prima, io sono fermo a Rod Laver, quindi. Sì, però insomma, il discorso è si dovrebbe fare in modo a monte che per i club che professionistici, per i club di Serie A, fosse conveniente investire sul settore giovanile, cosa che non accade. Dunque, se io sono il Milan, l'Inter o la Juventus, perché dovrei farlo? Per fare della beneficenza, per aiutare la nazionale? A me che mi importa la nazionale, mi interessa vincere lo scudetto, mi interessa andare in Champions League, mi interessa fare dei soldi andando in Champions League. Sono queste le cose che mi interessano se io sono il Milan, l'Inter o la Juventus, o il Chievo, che aveva un'eccellente squadra primavera, è stata smontata, nessuno è arrivato in prima squadra, sono stati tutti ceduti e l'investimento sul settore giovanile è stato, non so se dimezzato o di più, quindi è stato decurtato in maniera spaventosa. E questo, insomma, dovrebbe portarci a farci a domandare qualcosa. Dicevamo della nazionale Under 21, abbiamo la nazionale Under 21 che è vicecampione europea, sta andando avanti, sta facendo di nuovo strada. Il capitano della nazionale Under 21, Matteo Bianchetti, fa panchina nell'Empoli. E dunque, la domanda è perché si chiama Bianchetti, non Bianchetti o Biancetti? O perché c'è qualcuno più bravo di lui? O perché c'è qualcuno che ha più fame di lui? O perché c'è qualcuno che per il club è più importante valorizzare rispetto a lui? Forse sono domande che sarebbe il caso di farci, perché io non credo all'allenatore che dice no, questo è bravo, ne faccio giocare un altro perché è straniero, magari mi sfroccuglia di più la fantasia dei tifosi. Io a questi discorsi faccio fatica a credere. E ripeto, secondo me nel caso dello sport professionistico al massimo livello possibile devono giocare quelli bravi, che poi vengano dall'Italia, dalla Francia, dal Brasile o dal Messico, a un allenatore e a un club poco importa, questa è la dura realtà. Allora, stamattina Totti ha ricevuto il premio Facchetti e Sabatini, lui sì, fuori classe della scrivania, ha detto meriterebbe il pallone d'oro alla carriera. Siete d'accordo? Lui è tra i primi 5 italiani di tutti i tempi, forse gli faccio un torto. Infatti aspettiamo l'istituzione del pallone d'oro alla carriera, perché credo che se lo meriti. Poi si farà uno studio circa l'attività sua, come è stata, come si è sviluppata. Penso che qualcuno gli darà un riconoscimento simile. Sto bene fisicamente, ancora mi diverto quando scendo in campo durante gli allenamenti, e questo vuol dire che ancora ho voglia di giocare. Poi quando arriverà il momento giusto, tra poco mi metterò da parte. E questo era Francesco Totti. Voglio leggervi questo messaggio che non è firmato. La scorsa estate l'Italia fu eliminata al primo turno da Brasile 2014 per le papere di Buffon, e lo stesso portiere le sue colpe le scaricò su Balotelli. Per la papera di ieri sera, a chi mette la colpa? A Rosetta sulla cometa? Scrive un ascoltatore. Paolo Avellino, buongiorno. Salve. Dica. Allora, a proposito dei petardi, è giusto chiedersi chi fa entrare i petardi allo stadio, però io mi chiedo, ma Buffon ieri chi l'ha fatto entrare? Marchisio ieri chi l'ha fatto entrare? Darmian ieri chi l'ha fatto entrare? Non parlo dei giocatori in assoluto, ma dico proprio ieri, erano impresentabili. Darmian, c'era una squadra di pallone, cioè i croati che giocavano a calcio, e c'eravamo noi, cioè dei ragazzi insomma presi alla buona. Secondo me questi al dei petardi ieri non dovevano entrare. Addirittura. Sì, chi doveva entrare? Allora Paolo, mi dica lei, chi deve entrare? Chi deve giocare in nazionale? Mi dica lei. Ma ieri non era la nazionale, ieri era una specie di era under 25, under 30, una sperimentale. Io mi ricordo tanti anni fa c'era un'apparizione della nazionale sperimentale. Quella di ieri sera era qualcosa, non era sperimentale, e la partita era importante assai, però è quello che abbiamo in questo momento. Che sia che c'è bisogno di ricambi, che Pirlo è vecchio, che Buffon è vecchio, che Barzagli è vecchio, che De Rossi è vecchio, che Tizio è vecchio. Poi alla fine la verità è che quando c'è da tirare la carretta, i De Rossi, Pirlo, i Barzagli, Chiellini, Buffon sono sempre in prima fila, no? E per cui io penso che bisognerebbe rispettare un po' di più loro, non per quello che sono stati, ma per quelli che sono ancora adesso e per quello che rappresentano adesso, in questo momento, in Italia calcistica. E bisognerebbe incominciare a premiare e a dare i meriti giusti a chi se li merita, a chi se li guadagna sul campo, ecco, e non demeriti per sentito dire o perché qualcuno potrebbe o vorrebbe fare, ecco, perché poi quando si va in campo bisogna fare e non basta più potrebbe fare o magari farà. In campo bisogna fare. Vabbè, questo era un Buffon d'antan, come sapete, dichiarazioni alla fine dei mondiali molto, molto polemiche. Insomma, la verità è che A, gli anni passano per tutti. B, quanti giocatori l'Italia ha di acclarato livello internazionale in questo momento? Probabilmente 3: Pirlo, Buffon e De Rossi. Età compresa tra i, se non sbaglio, 36 e 31 anni. De Rossi ha festeggiato ieri le 100 partite in nazionale. Loro sono gli unici tre giocatori, Pirlo, cioè Buffon e De Rossi, già entrati in pianta stabile in questa nazionale, ovviamente, e Pirlo che andrà a farne parte quando starà bene. Quindi è per questo che dico, quello che l'Italia poteva presentare ieri, ma poi ci sono tutti gli infortuni, c'è Bonucci che comunque è un giocatore importante per questa nazionale, appunto c'è Berratti che è una cosa pazzesca secondo me, ma ne parlavamo anche la settimana scorsa con Paolo Condò, è una cosa pazzesca che non trovi spazio in questa nazionale che di talento non ne ha, quindi che venga messo in discussione uno come Berratti, è giovane, è forte, ha i piedi, al talento, al cervello, alla personalità, gioca titolare in una delle squadre più forti d'Europa e che deve fare di più, non lo so. Detto questo, l'Italia ieri ha fatto la partita che doveva e che poteva fare, al massimo delle sue possibilità. Angelo, provincia di Cremona, buongiorno. Buon pomeriggio. Volevo spezzare una lancia a favore dei tifosi. Io non dico che non siano colpevoli, sono colpevolissimi, però hanno usato i fumogeni, non hanno usato coltelli e pistole come è usanza qua in Italia comunque. Beh, insomma, come usanza qua in Italia. Mi scusi, ultimamente sono morti allora, dei ragazzi. Angelo, dobbiamo dire che in fondo erano dei bravi ragazzi perché hanno solo tirato dei fumogeni. No, io ho detto che sono colpevoli, non ho detto che sono bravi, sono colpevoli, però hanno usato fumogeni. Ho capito. Usato coltelli e pistole. Va bene, è meglio. Ma qua in Italia si usano coltelli e pistole. Qua in Italia si usano armi improprie. Ovviamente che non c'entrano niente con una partita di calcio, ci sono dei fatti di cronaca e quelli a cui lei fa riferimento sono fatti di cronaca. Non mi faccia dire che i fumogeni si possono lanciare per le strade perché tanto non sono coltelli e pistole e magari non ammazzano la gente. Cioè, secondo me questo è un discorso che non regge, non si può dire voi in Italia usate coltelli e pistole, allora i fumogeni tutto sommato bravi ragazzi, perché questo, ripeto, è un discorso che non ha molto diritto di cittadinanza, secondo me. Mario Chieti, buongiorno. Buongiorno, ascolti, volevo dirvi semplicemente, ieri sera tutto quel casino di croati, ok, va bene, in Italia questo problema si è affrontato da tanto tempo, ma come mai, come sono entrati tutti quei croati? Abbiamo spiegato. Ce l'ha spiegato prima un ascoltatore come sono entrati, non c'erano le perquisizioni, non c'erano i controlli, La rete internazionale degli ultra, che è un fenomeno ormai abbastanza barocco, abbastanza caduto in disuso, no? Cioè la famosa mentalità ultra eccetera eccetera, che veniva sbandierata negli anni 70-80 per andare in giro a far casino, in parte non esiste più, in parte si è evoluta, è diventato un fenomeno commerciale, almeno dalle nostre parti, fare l'ultra. Ed è per questo che insomma la storia dei coltelli, delle pistole eccetera conta fino a un certo punto. In questo momento le curve degli stadi italiani sono dei centri di potere economico, quindi questo è il discorso da affrontare. Se vogliamo parlare di violenza, allora io vi ricordo che, e vi sfido su questo, negli anni 70, 80, 90 andare allo stadio era qualcosa di estremamente più pericoloso di quanto non sia adesso. E su questo attendo smentite, se volete. 800 24 0024 numero verde. Pierluigi Pardo, buongiorno. Come va? Bene, lei? Bene, bene, sono qui davanti a un cane. A un cane. Si chiama Oliver. A un cane. È un cane stupendo, un cane di pelo corto, bellissimo. Ma che mi sta raccontando? Razza è un bracco di Weimar, cane tedesco, di grande qualità. Stai dicendo? Siamo Oliver. Salutami Oliver con grande affetto, ti chiederei di passarmelo al telefono, ma non so se funziona, sai. Funziona il telefono, no? Ascolta, vi posso farti sentire una cosa? Beh, io te la faccio sentire. Se ci sei. No, volevo farti sentire il vero grande protagonista della domenica, che non è Conte, ma è Pierangelo Manzaroli. Sai chi è? No, sentiamolo. Te lo dico: CT di San Marino, che ieri ha fatto primo punto 0-0 con l'Estonia. Primo punto per San Marino dopo 59 sconfitte. Poi ti chiedo chi giocava a San Marino tanti anni fa. Vai. Per me è un risultato normale, perché me l'aspettavo, l'avevo già detto in tantissime interviste, i ragazzi stanno lavorando in maniera ineccepibile, in allenamento fanno delle cose egregie, al di sopra delle loro potenzialità, sapevo che se la sarebbero giocata contro qualsiasi, i risultati lo stanno testimoniando. Queste sono le nostre partite, prima di tutto bisogna saper soffrire, bisogna fare una fase difensiva impeccabile, essere organizzati e poi sfruttare quelle poche occasioni che ci capitano, però bisogna sapersi accontentare. Io credo che chiedevamo dei miglioramenti, chiedevamo che questa progressione tecnica, tattica, atletica avesse delle risposte. Io credo che in tutte le componenti i ragazzi sono andati anche al di là delle più rosee aspettative. Beh, ti ho trovato un ospite perfetto per Tiki Taka di stasera. Perfetto, no? Stasera è una puntata speciale, ore 23:10, parleremo di Pantani con la straordinaria inchiesta del nostro Davide Zan, e poi torneremo su Italia-Croazia, ovviamente su quello che è successo ieri in campo e fuori, perché Razzi, Mazzi e Lazzi, insomma. Insomma ragazzi, ieri sono successe delle cose ovviamente un po' brutte che soltanto in parte insomma in qualche modo ci chiamano responsabilità nostre italiane. E ovviamente hanno messo controllo il fatto che nei nostri stati entrano cose che non possono entrare, ma insomma, ovviamente hanno anche a fare con tifoserie particolarmente nervose, diciamo così. Ti piace nervose? Mi piace nervose, e le tifoserie nervose vengono a scatenare i loro nervi, le loro brame, le loro voglie dove sanno che possono farlo. Quindi, questo è un punto fondamentale, perché sicuramente in Inghilterra non sarebbe successo, come ce l'ho detto, insomma. Abbiamo probabilmente anche questa immagine di paese particolarmente tollerante da questo punto di vista, dove questo tipo di atteggiamenti possono essere in qualche modo appunto tollerati. E certo. Beh, la rete degli ultra, internazionale degli ultra, tutte queste cose le sa perfettamente. Quindi se devono mettere una bandierina sulla mappa dove andiamo, è chiaro, no? Il discorso. Francamente io ti dico, da uomo progressista, al dialogo, e tra l'altro va benissimo, mille volte ci siamo anche confrontati, assolutamente sereno sul fenomeno, e pronto anche a sottolineare i mille aspetti positivi che ci sono nelle curve in Italia e in tutta Europa, però insomma qui credo che abbiamo raggiunto un limite che non è più tollerabile. Quindi la parola repressione è bruttissima, però allora non vogliamo usare la parola repressione, usiamo rispetto delle regole. Sì, usiamo rispetto delle regole e degli altri. Siamo dei fessi, e alla fine facciamo la figura dei fessi, e probabilmente il fatto che siano successe quelle scene ieri è legato proprio a questo, cioè al fatto che sanno benissimo che siamo dei fessi. Lì devo arrivare. Beh, sentiamo Andrea da Cesena, tifoso di San Marino, naturalmente. Andrea, no. Buongiorno. Tifoso del Cesena assolutamente. Da una chi vita. Ha giocato, qual è il più famoso giocatore che lei ha mai sentito giocare con la maglia di San Marino? Ha giocato anche nel Cesena. Domanda Bonini, da prima. Naturalmente. Bravissimo, Massimo Bonini, il biondo della Juventus di Platini. Ecco, quello che correva anche per Platini. Esatto, importante che non rompete le mie scatole se io fumo, importante che non fumi Bonini. Bravissimo, lo ricordo sempre anch'io, la ricordo sempre anch'io. E niente, dunque io dico, volevo chiamare in merito al discorso degli ultras, al discorso commerciale delle curve. Francamente è abbastanza irritante e offensivo, perché non da tutte le parti è così. Ci sono quegli ultras che lo fanno per avere dei vantaggi anche economici da parte delle società, ma ci sono anche quegli ultras che ci rimettono di tasca propria per organizzare trasferte, striscioni, bandiere e quant'altro. Per cui generalizzare è sempre molto sbagliato. Quello che diceva Andrea, è quello che diceva Pardo. Cioè sono il re di questa teoria, proprio veramente mi inviti non Nozze, perché già mi sono sposato, ma di più. Io credo che nel mondo ultra ci siano, ma perché lo penso, perché non è che lo dico, perché ci credo veramente. So benissimo che ci sono valori positivi di aggregazione, di energie giovanili che vengono spese anche per obiettivi belli, quindi è sbagliato generalizzare. Il problema è che poi quando vedi come medio è che Modric e Kovac hanno avuto parole perfette, cioè, tante volte, no, le connivenze, ci sono delle diplomazie che vengono usate dai calciatori a proposito delle intemperanze degli ultra, e loro due ieri sono stati perfetti, hanno detto non capiamo perché facciano questo, così ci danno e basta. Insomma, è un modo secondo me da uomini, vero, per dire e per sottolineare che non c'è nessuna possibile giustificazione per un simile lancio di fumogeni in una partita tranquilla, serena, con i bambini in curva. Allora vuol dire che siete, non lo so. No, vuol dire tanto per cominciare che è premeditato, perché è ovvio che non ti porti dentro l'Arsenale se non hai intenzione di far casino, quindi premeditato, poi il gol, il tiro fuori dentro, cioè tutto, no, ma pretestuoso totalmente, no? È tutto premeditato, e sei andato a premeditare un'azione di questo tipo dove sapevi di potertelo permettere, tutto qua. Ma il discorso non credo che possa essere allargato di moltissimo, senza andare a dire che nei Balcani sono zone particolarmente pericolose dove una certa mentalità ultra trova ancora rispetto totale, no, perché proprio perché sono progressista e credo che comunque alla fine bisogna camminare un giorno nelle scarpe di quel giudicare, quindi il rispetto nei confronti di quelle popolazioni, del dramma che hanno vissuto, delle dinamiche che si sono scatenate, delle vittime, della sofferenza è totale, però insomma è un dato oggettivo, se vuoi un po' superficiale, però insomma spesso quelle tifoserie lì in maniera particolare, soprattutto a livello di squadre nazionali, si macchiano di episodi che non sono tollerabili. Ora è chiaro che noi abbiamo tutti ancora negli occhi le immagini di Bogdanov, sappiamo benissimo che Sergio e Croazio sono due cose molto diverse, però, che è tornato in ufficio, però, come notavamo l'altro giorno, poi stare il drone qualche giorno fa in Serbia e Albania, quindi per carità, dal generalizzare e ci mancherebbe altro, ripeto, massimo rispetto, perché poi lì c'è stata la sofferenza vera, c'è stato l'orrore vero, quindi la cosa principale che mi viene da dire è solidarietà a chi ha vissuto questo dolore in prima persona, solidarietà massima, però non toglie che ieri sono successe delle cose che sono inimmaginabili e che spesso con quelle tifoserie ci troviamo di fronte veramente a una furia che non ha nessun significato, non ha nemmeno nessuna logica che riusciamo a capire, a comprendere, perché non, veramente ieri nella partita di ieri non c'è stato un singolo episodio, una singola situazione che in qualche modo possa aver alimentato questa è una cosa incredibile, capisci che è pura premeditazione, cioè sono venuti con i fumogeni perché volevano far casino, cioè, la loro partita era quella. La loro partita era quella, l'hanno stravinta. O Perisic, la loro partita era quella, ma era chiaro che la loro partita era quella lì, Pier. Franco Cosenza, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Ci sono? Me lo sono dimenticato quello che volevo dire. Allora, c'è problema, dirne un altro. Ok. Allora, per quanto riguarda il discorso delle tifoserie, io penso che non ci siano giustificazioni fra tifosi buoni e cattivi, perché se uno va al campo sportivo magari con il figlio eccetera eccetera, non è che può rischiare poi che ritorni a casa ferito, quindi non credo sia positivo. L'altro fatto è che solo in Italia questi qua vengono portando questi armamentari, come dicevi tu prima, e credo che forse questi stadi rappresentano lo stato sociale e politico dell'Italia. Questo secondo me, siamo un colabrodo. Questo per fare un piccolissimo appunto. L'altra cosa, per quanto riguarda la squadra, credo che comunque da una squadra dell'ultima finale del Brasile, là che eravamo praticamente sottoterra, Conte sta cercando di ricostruire una squadra, credo lo stia facendo bene per quello che si vede. Non dimentichiamoci il grande tunnel che hanno fatto a Buffon, che non ne parla nessuno, cioè voglio dire, una papera colossale da 30 metri, adesso papera, non lo so. Papera colossale quella di ieri di Buffon, c'è chi sottolinea che non è neanche la prima, cioè ci sono altri che dicono ma cosa deve aspettare Sirigu per trovare una maglia da titolare, deve prendere il numerino come dal Salumiero all'Esselunga, domanda qualcuno. Allora, traffico, poi torniamo per Luigi Pardo, con cui vorrei parlare anche appunto della nazionale di ieri sera e non solo di Razzi e Mazzi. Il gioco è ripreso con il pallone gestito da Buffon. Ranocchia. Poi il colpo di testa di Brozovic. E ancora, adesso però Kuipers, credo mandi le squadre negli spogliatoi. Ah sì. Kuipers ferma la partita. Prende questa decisione Kuipers ed è una decisione che io condivido in pieno. Tutti convocati. Sì, hanno comunicato due ore fa che, consultati gli organi competenti tecnicamente parlando e gli organi politici della città e della regione, ritengono positivo il fatto che si giochi anziché non giocare. Fermata, noi vogliamo dimostrare come federazione di essere vicini a quelle disgrazie, l'abbiamo fatto da collettore insieme ai professionisti di Serie A e la Lega Dilettanti e gli altri Lega B e Pro, daremo un consistente contributo, naturalmente rivolto alle strutture sportive, perché civilmente bisogna che ci pensino il governo e lo Stato a sistemare i fiumi. Noi vogliamo sistemare il campo. Ci può pensare la nazionale di calcio a sistemare queste cose, però domani si gioca a Genova, mentre c'è chi ricorda un altro talento di San Marino, Marco Macina, pupillo di Lidl, ma giocatore del Bologna, non mi ricordo di quali altre squadre. Pierluigi, eccolo. La nazionale di ieri sera, al di là di razzi, fumogeni, premeditazioni, non benissimo. Guarda, io anche certe letture dei giornali di oggi, insomma, mi sembra che in qualche modo raccontino del momento difficile o quantomeno del mood negativo che si è creato attorno al nostro calcio, per cui un pareggio in casa con la Croazia, da alcuni, sentivo anche le dichiarazioni per esempio di Orialli ieri, viene vissuto quasi come un risultato di prestigio. Non lo è, con tutto il rispetto per la Croazia, considerato il fatto è più forte di noi in questo momento, cioè la Croazia è più forte dell'Italia, di questa Italia. Più forte di noi, però ragazzi, se la Croazia è più forte di noi, allora è casa, nel senso, la Croazia è una buona squadra emergente, talentuosa e distruttiva come è sempre stata, che storicamente ci ha messo in enorme difficoltà anche nel fortunato europeo del 2010, perché nel 2010, ormai ho perso il conto con gli anni, 2012, vedi che sono bollito, 2012 Polonia-Ucraina, ricorderete che sono arrivati in finale, ma contro la Croazia abbiamo fatto 1-1 faticando, quindi è una squadra sicuramente di talento. Detto questo, io gioco in casa contro la Croazia, mi chiamo Italia, ho una squadra sperimentale ma discreta. A me francamente festeggiare il pareggio in casa mi fa un po' strano, ecco, festeggiare il pareggio in casa mi fa un po' strano. Detto questo, io credo che ieri comunque, per quelle che erano le situazioni della partita, per quello che abbiamo visto, cioè che loro erano comunque più sicuri di noi, più spigliati di noi, il pareggio non sia sicuramente un risultato da buttare. C'è tanto lavoro, c'è tanto lavoro davanti, questo non ci sono dubbi, perché siamo veramente in una generazione di mezzo, con alcuni giovani che non sono ancora esposti del tutto e con la vecchia guardia che ormai mostra la corda ieri, ecco, che qualche problema ce l'ha. Ormai... un'altra cosa che volevo dire invece del tipo da vecchio prima, al di là del contributo, l'accordo di ieri, di cui abbiamo parlato anche ieri sera, è un altro segnale concreto. Alla fine qua siamo minimo a 17 milioni di euro in più, sì, questa nazionale in cassa grazie a questa partnership nuova. Sì. Insomma, voglio dire, Stavecchio, diciamo che se, forse se la cava meglio con i numeri che con le parole. Ecco. Sì, questo è sicuro. Questa battuta, io questo sicuro. Ribadisco, non ho idea sulla gaffe assolutamente irricevibile e vergognosa di quest'estate, dico pure che però mi pare che da manager sta lavorando. No, ma questo, queste cose vanno riconosciute, che poi ci sia anche di un po' di premeditazione nei suoi confronti. A me quella di Balotelli torna al suo paese non sembra una cosa così clamorosa, cioè torna al suo paese vuol dire torna nel paese dove sta giocando, vuol dire, se vogliamo. Anche, scusate, anche il famoso lo dico tutto per citare anche la famosa espressione handicappate, no? Relativo alle donne, insomma è un'espressione che fino a qualche anno fa veniva utilizzata e che insomma a me sembra che di gaffe ce ne sia stata una sola e clamorosa, che sarà quella di Pogba, per la quale ha pagato, sta pagando. Poi però, come ha detto dal giorno zero, dal giorno in cui è stato eletto, io non avrei votato per lui, però è stato eletto, giudichiamolo per quello che sta facendo. Secondo me, insomma, per quello che possiamo vedere noi da qui, è al momento i primi mesi, minimo 17 milioni in più garantiti per la federazione di questi tempi di crisi, non sono poca roba, sono d'accordo. Sarà stata l'impronte che sarà più brava di altri, non lo so chi è, però è un dato oggettivo. Allora, siccome questo qui è un manager che oltretutto guadagna 38.000 euro lordi l'anno, quindi stiamo parlando di un manager che guadagna un stipendio da impiegato, mi pare che questi risultati li stia facendo. Quindi per una volta mi piacerebbe leggere gli stessi articoli intellettualmente onesti da questo punto di vista, altrimenti poi finiamo per non essere più credibili, finiamo per essere soltanto ideologici. Senti Pier, però a proposito dell'amichevole di questa sera, poi ti lascio andare anche perché è finito il programma, mi sembra un po' tempo buttato, perché sappiamo che per regolamento quelli che hanno giocato anche un solo minuto ieri sera non potranno giocare domani sera contro l'Albania per regolamento, perché devono passare 72 ore tra una gara della nazionale e l'altra, e questo tempo in mezzo non c'è. Sì, ma non è un po' tempo buttato in questo momento in cui c'è da costruire, c'è da lavorare su una squadra? Ma no, però sai che gli allenatori di tutte le nazionali, non soltanto di quella italiana, sono disperati per riuscire ad avere degli slot, delle occasioni per poter fare degli stage, per poter provare i calciatori, quindi comunque è un'occasione. Dal punto di vista televisivo è chiaro che non farà il 35% che ha fatto ieri Italia-Croazia, ma farà il 25%, quindi le televisioni, nello specifico la RAI, televisione per la quale non lavoro, per cui voglio dire, sono proprio a prova, al di sopra di ogni sospetto, saranno contenti. Il famoso brand della nazionale comunque farà il giro d'Italia e del mondo. Per Genova sarà un'occasione importante, un pezzo di incasso viene devoluto, e al di là del pezzo di incasso mi piace pensare, anche questo volevo sottolineare, che la nazionale, che è un brand, un'eccellenza italiana, se c'è un problema dà il suo contributo, no? È un mondo del calcio che viene visto spesso come distante dalla realtà e dai problemi della gente, qui insomma gli angeli del fango, anche loro nel loro mondo agiato, nella loro gabbia agiata, però sono degli angeli del fango che danno un contributo. Quindi io la vedo bene, non la vedo male, la vedo bene. È chiaro che sarà un test di importanza relativa, sarà molto genovese, le convocazioni di Conte sono chiaramente improntate a quello. Ma ci sta, io Caga francamente l'avrei convocato a prescindere, pure per Italia-Croazia, quindi figuriamo. Ma va bene così, quindi insomma non sarà una serata che tutte stelle, perché c'è l'Albania, però insomma è bello che la nazionale per i problemi, è bello che dia un contributo, insomma. Sì, sì. No, ma sto solo dicendo che secondo me magari si poteva trovare, o forse non si poteva trovare, una sistemazione diversa, in modo da dare a Conte, come hai detto tu, un altro slot per proseguire nel lavoro sul campo e rendere tutto un po' bisognava più giocare probante. Sabato questa qui con la squadra. Probabilmente sì. Ciao Pier, ci sentiamo domani. Ciao, baci. Ciao. Grazie per Luigi Pardo. Massimo da Bologna, mi scusi, ma non riesco a non abbiamo il tempo di parlare. Se vuole, promesso, lo facciamo domani. Tanto alle 2 siamo qua. Franco Piantini dal nostro autore, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti. Me ne posso andare? No, non la faccio più, già caldo. Senti Matt, non sto scherzando. L'ultima cosa che voglio fare è portarti alla partita con me. Perciò ecco come stanno le cose. Dammi metà dei soldi, io vado alla partita e tu puoi andare a vedere dove Cerci l'abitava da bambino o qualunque altra cosa voi Yankee cercate qui in Inghilterra. Insomma, mentre io mi godo la partita, tu fai un giro da turista. Ora, non so se hai capito, voglio la mia metà dei soldi. Non sei un granché a fare a botte. Parli con me, è stata la prima rissa della mia vita. Quella la chiami una rissa. E va bene, ti porto con me. Potresti imparare qualcosa. Sul soccer? No, Matt. Voi Yankee lo chiamate soccer. E mi fa vomitare. Devi smetterla di chiamarlo soccer. In Italia è sempre vecchio, è sempre la stessa cosa, è sempre la stessa cosa.